hey, hey. Baby, sto fumando, hey. Baby, sto fumando. Giro per la calle, sono attento. Lei sopra di me lo muove lento. Sedo dentro al letto, giuro che la spengo. Poi la riaccendo e sto fumando. Giro per la calle, sono attento. Lei sopra di me lo muove lento. Sedo dentro al letto, giuro che la spengo. E dopo faccio rapa pam pam, rapa pam pam, rapa pam pam pam pam pam pam pam, rapa pam pam, rapa pam pam, rapa pam pam pam pam pam pam pam, rapa pam pam, faccio ratatata. Voglio solo culone dirette da Bogotà. Prendere qualche millino, vivere come una star. Scrivere ciò che mi pare e i miei nuovi Saint Laurent. Tu sei uno di quelli che c'è fine settimana. I miei sono quelli che sono per farti la collana. E sempre sabato sera, ubriaco e testo cura. Ma sul tuo fondo schiena, poro si poro di te, nulla di nuovo. Ma io però ho preso il volo fra, non vi vedo da qua. Tu dici anche ci provi, ma manchi di serietà. Io ne cambio 5 sera, questa è la mia qualità. E sto fumando, giro per la calle, sono attento. Lei sopra di me lo muove lento. Steso dentro al letto, giuro che la spengo. E dopo faccio rapa pam pam, rapa pam pam, rapa pam pam pam pam pam pam pam, rapa pam pam. Quando fumo sai che non la passo, quindi gentilmente non rompermi il cazzo. Io già lo vedo da come cammina, che c'è il bagagliaio dietro ma non è latina. E che quando lo muove lei la gente si gira. Intanto gira un'altra canna e lecco la cartina. Anche se so bene che lei leccherebbe me, vuoi sapere invece cosa piacerebbe a me? Ehi, che il mio conto in banca schizzasse, diventasse più ciccione, moltiplicasse. Che a tutte le feste uscisse mambo dalle casse. Ehi, ehi. Baby, sto fumando, giro per la calle, sono attento. Lei sopra di me lo muove lento. Sedo dentro al letto, giuro che la spengo. Poi la riaccendo e sto fumando. Giro per la calle, sono attento. Lei sopra di me lo muove lento. Sedo dentro al letto, giuro che la spengo. E dopo faccio rapa pam pam, rapa pam pam, rapa pam pam pam pam pam pam.